I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Ha fatto bene il prefetto di Roma a precettare le poche sigle sindacali autonome che hanno organizzato la protesta degli autisti dell'ATAC. Roma è una città provata per gli scandali, per il degrado, per l'inefficienza. Organizzare scioperi, addirittura scioperi bianchi, quando il turismo segna il picco massimo e quando le temperature africane rendono vere odissee anche gli spostamenti più banali, è un atto di violenza verso i cittadini. È vero che il ruolo degli autisti, soprattutto se impegnati nelle zone più violente delle periferie, va assolutamente tutelato, ma quella necessità non deve mai prevaricare il sacrosanto diritto dei cittadini a potersi muovere con efficienza nella città. Alcuni dati sono sufficienti a mettere a nudo un vero disastro. A gennaio, ad esempio, per la sola linea 60, una delle più strategiche per chi percorre il centro, in una sola settimana sono saltate almeno 383 corse, quasi una ogni ora. E sui 2.300 mezzi disponibili dell'ATAC, 600 sono inservibili e non hanno pezzi di ricambio e languiscono nelle rimesse. Insomma, al di là dello stato pietoso dell'ATAC, che certo non è un'azienda degna di una grande capitale di un paese europeo, bisogna affrontare il tema dell'accanimento sindacale. È necessario cambiare le regole, lo dicono in tanti, lo dice anche il presidente della Commissione di Garanzia della Legge sul diritto di sciopero, Roberto Allesse. È maturo il tempo di abbinare a una nuova regolamentazione della rappresentanza sindacale anche quello di una nuova forma più democratica e civile per l'indizione degli scioperi. Insomma, è tempo di introdurre un referendum fra i lavoratori interessati alla protesta. E solo se il 50% più uno di loro dice sì all'agitazione, questa si può effettivamente realizzare. È il cosiddetto modello tedesco e se ne parla da quando era ministro del lavoro Gino Giugni, ma l'Italia delle corporazioni ha sempre rifiutato questa soluzione. È auspicabile che l'Italia sia davvero cambiata ed è tempo che dimostri di aver acquisito una nuova maturità sindacale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Non sembra anche a voi che stavolta il Fondo Monetario Internazionale l'abbia davvero sparata un po' troppo grossa? L'FMI ha detto che ci vorranno 20 anni per arrivare ad avere un tasso di occupazione come l'Italia aveva prima della crisi. La boutade dei tecnici del fondo in termini statistici significa poco o nulla, è come dire che arriveremo a ritrovare il lavoro fra 10 o tra 100 anni. Serve solo a dare un'indicazione psicologica e purtroppo di quelle demoralizzanti. E la fiducia invece in questo momento per l'Italia e per l'Europa è la materia prima più preziosa. Forse è utile fare tesoro del detto keynesiano che nel lungo periodo saremo tutti morti e quindi fare previsioni a lunghissima gittata lascia effettivamente il tempo che trova. Il fondo sembra preda di analisi un po' pigre da qualche tempo a questa parte, è un fatto del resto sottolineato anche non a caso da un suo autorevole esponente come Carlo Cottarelli già in occasione del rapporto annuale sull'Italia. Fa un po' effetto sentire oggi propinata la solita lezione sulla necessità di superare il dualismo del mercato del lavoro dopo che è stato approvato il Jobs Act che ha rivoluzionato le regole del gioco. Fa un po' specie sentire che serve la riforma della giustizia quando il tema è stato aggredito davvero da tanti fronti. Piuttosto il fondo dovrebbe fare tesoro del mea culpa fatto in ritardo sulla sottovalutazione degli impatti delle terapie dell'austerità sulla recessione dei diversi paesi ai quali è stata imposta la cura dell'austerity. Detto questo, per l'Italia resta moltissimo da fare, non ha certo imboccato una strada duratura e sicura per la ripresa e lo dimostrano i dati continuamente altalenanti della fiducia, come quelli che si sono registrati oggi, che segnalano un peggioramento soprattutto per i consumatori. Ciò che manca ancora è una terapia shock sul fronte dell'abbattimento delle tasse. Il governo l'ha promessa, speriamo davvero che ora la mantenga. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.